Ascoltate il passaggio di queste automobili accanto a me. Sono tutte automobili che hanno ormai deciso di abbandonare il combustibile fossile. È arrivato il momento di lasciare il posto ad altro, qualcosa che non costa niente, che è completamente gratuito e che è disponibile in grandissima quantità in natura e anche all'interno della cultura, delle culture umane. Guardate quante macchine stanno passando, ascoltatele, e si muovono grazie a un carburante che nessuno avrebbe mai immaginato, ma che è potente, dalle stesse capacità della benzina. Ecco, mi stanno arrivando continuamente messaggi, telefonate di persone che appunto chiedono informazioni. Come si fa a far andare le macchine a poesia? Ecco, continuate a scrivermi, a telefonarmi. Sentite quanti anche motorini, motociclette riescono a muoversi grazie a questo carburante. La poesia.